Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Signori, alle 9:09, siamo qui, diretta, via Monterosa 91, con l'Alpino in regia, con tutta la nostra redazione, Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi. Siamo fisicamente presenti nello studio, anche un po' emozionati per un ricongiungimento tra affetti stabili, perché c'è Mario Calabresi qui. Buongiorno a tutti. Signori, talmente affetti stabili, non effetti che faccio sentire il fruscio della carta che vado a scartare, perché Mario Calabresi si è presentato oggi direttamente dalla Liguria, si può dire, con... con un bel pacchetto di focaccia. Di focaccia genovese. Signori! Come dire? Cosa possiamo dire? Noi abbiamo ricambiato però con... col caffè, finalmente. E vabbè, che cosa possiamo dare? Qui a Milano siamo più spicci. Non è che possiamo... Era da marzo. Che non ci vedevamo di persona. Ah, pensavo era da marzo che mi dovevi un caffè, sì. Ah, no, anche quello. Era da marzo. Sono belle riunioni. Metto l'attenzione su una cosa che è un po' rimossa. Attenzione. Sono venuto rigorosamente in treno da Genova, perché venire in macchina continua a essere un incubo. Cioè, il tema delle gallerie è un po' una cosa così, sembra folklore, ma la Liguria è veramente paralizzata. È un disastro. La Liguria è paralizzata, e una città e una regione che hanno già pagato il prezzo del crollo del ponte e di tutta la crisi che ce n'è stata, oggi sta pagando un prezzo altissimo sul turismo e anche sui trasporti, perché per esempio il porto ha congelato un sacco di attività, e tutto questo, devo dire, un po' nel disinteresse per esempio del governo. Naturalmente in Liguria sono interessatissimi molto, e disperati molto per la cosa. Anzi, se siete in questo momento in macchina zone Liguri, in autostrada o già, diteci come va. Sì, è vero, abbiamo le informazioni del traffico, ma è bello sentirlo in diretta dai nostri ascoltatori. 349-238-6666 o chiamateci all'800240024. Vai, Alpino! Enthusiasm about the future. Tra l'altro, caro Mario, qui si innesta tutta la discussione che c'è stata, e in fondo è da lì che è partito tutto il dibattito, dal crollo del ponte Morandi, dalla vicenda Ligure, da quella tragedia che ha portato poi a questa vicenda, io la definisco così, vicenda di autostrade, di Aspi, dei Benetton. Tu hai capito chi ha vinto e chi ha perso? Perché io ieri dicevo, ma chissà chi ha vinto e chi ha perso, non si capisce dai giornali, e oggi al TAN fa la vignetta in prima pagina di Repubblica. Qualcuno ha vinto e qualcuno ha perso. Chi non si sa. Infatti, chi non mi si pare sa, che ci prenda perfettamente. Di sicuro c'è stato un compromesso, e quindi quelli che dicono la vittoria, abbiamo espropriato, tolto, intanto gliela pagano. Le quote, i Benetton scendono, e lo Stato con Cassa Depositi e Prestiti acquista. Compra. Quindi soldi pubblici. Soldi pubblici, sì, ma anche la revoca e tutto il resto, tutto quello che veniva sbandierato, adesso li puniamo, facciamo. Anche perché io resto comunque personalmente dell'idea che le punizioni arrivano nei processi, non per processi politici sommari. Saranno i processi a stabilire le colpe e le responsabilità di quello che è successo. No, ma se anche uno vuole togliere poi, come dire, la concessione, eccetera, non è che c'è stato appunto un togliamo la concessione, punto. No, ci sarà tutta una trattativa. Oggi Dario Di Vico fa notare che lo Stato è il trionfo del il ritorno dello Stato, Monte Paschi Siena, adesso autostrade, Alitalia. Insomma, il trionfo dello Stato. Non ci dimentichiamo, abbiamo un difetto, la memoria corta. Non dimentichiamoci che le privatizzazioni, al di là delle motivazioni economiche, sono state fatte perché i cittadini erano esasperati dalle burocrazie e dai malfunzionamenti che c'erano, per cui chiedevano a gran voce: no, vogliamo che sia un privato. Che poi i privati abbiano molte volte dato cattiva prova di sé o abbiano fallito è un discorso che non va dimenticato, ma non che adesso è tornato ad essere che la mano dello Stato dove c'è la lottizzazione, eccetera, eccetera, è diventata di nuovo la mano magica, la mano santa. Certo, guarda qua, ben trovato Mario Calabresi, aiuti, saluti, complimenti, la Celle Ligure, aiutateci. Esatto, esatto. Aiutateci. Devo dire questo, Antonello, tu hai presente, qualche anno fa, il secolo XIX, il giornale di Genova, lanciò un sondaggio dicendo sono genovese perché, hai presente quel gioco lì? E vinsero perché? Due cose a testa a testa. Perché inzuppo la focaccia del cappuccino. Eccola qua, noi la focaccia quella ce che l'abbiamo. Noi abbiamo la focaccia e anche il caffè. E la seconda, sono genovese perché mugugno. Il genovese mugugna. Però secondo però me mugugna, ha ragione, ma è questo. Troppo gentile, perché non dovrebbe mugugnare, dovrebbe alzare la voce, perché non è possibile quello che è successo. Sì. E quello che è successo è una concomitanza di cose. Il Ministero dei Trasporti, e che per troppo tempo non ha vigilato, che ha chiesto, dopo un crollo in una galleria, di rifare tutti gli interni delle gallerie. Mm-hmm. E gli ha dato, però, per far vedere che adesso con le autostrade allora hanno il pugno duro, subito, lo fate tutto subito. E loro hanno fatto, e questi tutto hanno subito. Fatto tutto subito, per cui tutte le gallerie bloccato. Sono a doppia percorrenza e una su due da un lato è chiusa, dall'altro è aperta a doppia percorrenza, cioè un incubo. Allora, a me dispiace tra l'altro coglierti con una notizia ferale. Tu questa notizia lo so che hai fatto finta di tralasciarla sui giornali, ma c'è una pagina sul Fatto Quotidiano, c'è sul Quotidiano Nazionale. Mi dispiace comunicarti, caro Mario Calabresi, che è stata fatta una proposta di legge sulla totale incompatibilità di cariche e la incandidabilità, il conflitto di interessi. E una delle cause di totale incandidabilità è chi è direttore o vice direttore di giornali. Totale incandidabilità, non puoi candidarti, tu che volevi buttarti io, in sai, politica. Non sono direttore più che... di niente, per cui posso fare quello che mi pare. Cioè, ma non vale anche per gli ex, no? Vabbè, scusa. Cioè tu che sognavi di buttarti nell'agone politico, i magistrati aspettavi possono, le prossime elezioni, eccetera, eccetera. No? No, niente, totale incandidabilità. Direttore e vice direttore di giornali non possono candidarsi. Non ho capito la ratio, cioè perché? Perché prima orienti in qualche modo da direttore di giornale la linea politica e poi ti candidi. Sì, questo sarebbe il ragionamento. Va bene, dai, parliamo di cose molto serie. Allora, campeggia da ieri sulla prima pagina di Repubblica, e questo ha lanciato il dibattito, una foto che è un pugno nello stomaco, la foto di questo migrante morto in mare, evidentemente da tanti giorni, incuneato in un gommone posticcio per un tentativo di salvataggio. Io ricordo che tu pubblicasti l'altra foto, quella storica del bambino di Aylan morto sulla spiaggia 3 anni. Quando ci sono queste pubblicazioni c'è anche inevitabile il dibattito se sia il caso o no. Attenzione, io non ho mai pubblicato la foto di un morto sul giornale e ho sempre detto men che meno un bambino morto. E questo ho sempre pensato che fosse giusto fare. Tant'è che il giorno in cui arrivò la foto di Aylan, che era lì sulla questa spiaggia turca, era settembre, io mi ricordo che me la portarono, lavoravo alla Stampa, ero direttore della Stampa, me la portarono e ho detto ma per carità, non si pubblica. Poi dopo passavano le ore e io pensavo, ecco, io siccome quella foto da disagio, io rimuovo il fatto che sulle coste di quel mare di cui abbiamo fatto le vacanze, perché era di fronte alle coste greche, il nostro Mediterraneo, ci sono bambini che muoiono affogati perché scappano dalla guerra. E io per un quieto vivere rimuovo questa cosa e metto un'altra foto che sia una foto tranquillizzante. Mm-hmm. Allora forse invece è importante che le coscienze sappiano. Però queste cose vanno fatte col contesto. Io scelsi una foto in cui c'era il bambino, quella famosa, sdraiato sulla spiaggia, che sembrava un figlio nostro, con la magliettina rossa, certo, i pantaloncini corti. E scrissi però un pezzo in prima pagina accanto che spiegava perché questa cosa è eccezionale. Perché è dura questa cosa, però noi non possiamo far finta di non sapere che cosa accade. Poi decideremo che cosa fare. E quella foto fu una foto molto potente perché, per esempio, fece cambiare atteggiamento sulla guerra in Siria e sull'accoglienza dei profughi siriani, per esempio, ad Angela Merkel, che soltanto 3 settimane prima aveva detto non se ne parla di accoglierli. E quindi io credo che ci siano casi in cui, naturalmente non può essere una cosa, se no tutto poi diventa anche show e poi... Però in determinati casi si può... queste cose sono pezzi storici. Ti dico l'ultima cosa. Avete presente che c'è una foto di quella bambina vietnamita che cammina nuda con le braccia aperte, storica, colpita dal napalm. Fuggendo dal napalm. Quella foto da sola ha fatto più di milioni di documenti. Quella foto ha messo fine nell'opinione pubblica americana all'appoggio alla guerra del Vietnam, anche in quelli che ancora appoggiavano la guerra. Quella ragazza, che oggi è una donna e vive in Canada, quella signora venne intervistata quando è stata pubblicata la foto dai LAN, dicendo, e lei disse, io che sono stata messa sui libri di storia, nuda, colpita dal napalm, dico che fecero bene a pubblicare la mia foto, perché fece capire all'opinione pubblica che cosa stava succedendo in Vietnam. Orrore. E quindi questo andava fatto. Sì, dopodiché riguarda l'immigrazione, ma ne parliamo adesso con la nostra ospite, ci sono delle frasi e delle quasi dei mantra, delle situazioni ripetute. Prendiamo la questione con la Libia. Allora, il ministro Lamorgese è andato in Libia, il ministro dell'Interno, ha fornito, credo, 30 mezzi terrestri per dire bisogna combattere l'immigrazione con il solito... è ripetuto giustamente invito alla Libia di dire dovete comportarvi bene, dovete smetterla, dovete rilasciare i migranti dai vostri centri di detenzione. C'è un qualcosa che sembra veramente altro che giorno della marmotta evocato da Beppe Grillo. È questo forse che dà la sensazione di un già sentito e di una situazione che non si sblocca mai. Ma vorrei salutare Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Buongiorno. Anche dal nostro Mario Calabresi che è qui in studio. Senta Linardi, la Libia, ecco, adesso si diranno le solite cose, giustamente la Libia deve collaborare, la Libia non rispetta gli standard internazionali di rispetto dei diritti umani, ma cosa si può fare davvero in più per non dire le stesse cose e vedere che qualcosa si mette in pratica? Ma innanzitutto io credo che sia necessario cambiare strategia, nel senso che quella attuale è innanzitutto non è una soluzione, è semplicemente una strategia di contenimento e mettere un tappo, e mettere un tappo non ha mai funzionato, soprattutto per fenomeni che sono radicati, che partono da molto più in giù. In questo momento quello che vediamo è un sistema per cui chi arriva al mare viene riportato indietro in questi centri di detenzione che avete appena menzionato, e se da lì sopravvive, riesce a uscire vivo o viva, viene rimessa in mare, riportata indietro, e di fatto è un circolo vizioso che tutto può essere meno che una soluzione. E io credo che bisogna lavorare su soluzioni contemporaneamente su soluzioni immediate, di medio termine e di lungo termine. È evidente che la cosa più importante sia creare le condizioni per cui queste persone non debbano muoversi del tutto da casa loro, il famoso aiutiamo da casa loro. Questo però è, come dire, sono io la prima a dirlo, è una straordinaria utopia, nel senso che il mondo sarebbe bello se fosse un luogo perfetto dove tutti stanno bene a casa propria. Esatto, sappiamo benissimo che questi processi sono processi che innanzitutto, anche volendoli affrontare seriamente, sono processi che impiegherebbero anni ed anni e che presupporrebbero comunque una modifica delle nostre stesse abitudini, perché per esempio non avremmo più l'iPhone da 600 euro con la batteria al litio, prodotta dove è possibile prodotta in modo tale e dove è possibile che questo abbia un senso. Quindi bisognerebbe agire su un cambiamento radicale di quelle che sono innanzitutto gli interessi e le attività che noi stessi svolgiamo nei paesi di origine, in modo tale che fossero rispettosi delle popolazioni locali. Ci sono conflitti ovviamente che noi non possiamo andare a risolvere, ci sono situazioni che non... Che è veramente complessa e impensabile di risolvere con la frase aiutiamoli a casa loro. Questi sono processi di lunghissimo periodo. Io però ho una domanda su questo, perché vorrei chiedere a Mario Calabresi, a lei. Allora, E c'è adesso però una piccola novità che abbiamo imparato a conoscere, che si chiama coronavirus. Allora, si può, lo chiedo a Mario innanzitutto, si può fare un discorso che non sia da steccati ideologici, politici? Cioè, tanto lo sappiamo chi dice chiudiamo i porti, no respingimenti, non facciamo entrare nessuno. Si può, esulandoci da questo discorso, dire ragazzi, però adesso, al di là della politica, c'è una cosa che si chiama coronavirus. Se è vero che arrivano persone che sono anche infette in alcuni casi, cioè non dobbiamo pensare che si possa dire oh ragazzi, per il momento bisogna un attimo sospendere tutto, perché altrimenti non riusciamo più a vincere questa battaglia. Si può impostare un discorso così, Mario, senza apparire salviniani? Nel momento in cui ci sono persone che circola il virus. Noi abbiamo visto che arriva un aereo da Dacca, esatto, e a bordo ci sono persone malate. Abbiamo visto che un manager veneto va per lavoro in Bosnia o in Serbia, non ricordo più dove era, in Serbia, e torna malato e va a feste, compleanni eccetera eccetera, e contagia un sacco di gente. Vediamo che anche tra le persone che vengono salvate in mare ci sono dei malati. Questo significa che ogni movimento, cosa possiamo fare? Così come non riusciamo a fermare il manager che va in Bosnia, se non siamo riusciti a fermare le barche, che tra l'altro però è da sottolineare che sono fortemente diminuite, è impossibile, non è che tu allora mandi un comunicato come alle linee aeree alla Libia e gli dici non partono più nessuno per il Covid. Il punto fondamentale qual è? Fare dei controlli rigorosi e ferrei e isolare la gente. Quindi arrivano e si prendono delle caserme, strutture, e questo discorso, Giorgia Rinaldi, le sta bene? Pronto? No, è caduta la linea. No, nel senso, perché sennò, Mario, l'accusa è quella di dire ma qui c'è il razzismo. No, cioè, voglio dire, se tutti i cittadini italiani in questo momento non accettiamo che gli cittadini americani, statunitensi, appunto, vengano in Italia piuttosto che i russi o i brasiliani, idem, dobbiamo fermare, controllare e mettere solo in quarantena in tutti. In quel caso, visto che le barche partono, bisogna, come dire, almeno mettere tutto in quarantena. Certo, questo ha anche un costo inevitabile, perché reperire strutture, trovare strutture. Sì, non stiamo parlando in questo momento di migliaia di persone. Visto ben altre cose. Ma l'abbiamo recuperata, Giorgia Rinaldi? Buongiorno, eccoci. Giorgia, ci sente? No. Pronto? Vabbè, eccoci qua, ci sente. No, diceva. Scusate. Cosa ne pensa dell'idea del quantomeno il controllo ferreo di chi sbarca per via del coronavirus? Io credo, innanzitutto condivido l'affermazione per cui è chiaro che il virus appunto si sposta nel momento in cui le persone si spostano, e questo riguarda chiunque, riguarda chi migra, riguarda chi si muove per turismo. Io in questo momento vi parlo da Lampedusa, dove ci sono controlli ferrei nei confronti delle persone migranti che stanno arrivando sulle coste dell'isola, in particolare dalla Tunisia, e nessun tipo di controllo nei confronti delle migliaia di turisti che stanno arrivando con voli charter da Milano, Bergamo e Venezia, nell'ordine di 4-5 mila persone alla settimana. Questo, attenzione, non vuol dire, io credo che sia importantissimo, quindi condivido l'importanza di controllare, e di controllare però tutti, nello stesso modo, di organizzarsi in modo tale che sia possibile, come è stato fatto in alcune aree più piccole, però io ovviamente non sono a conoscenza di quelle che sono le problematiche tecniche, per esempio, per cui non sia possibile provvedere all'immediato disposizione del tampone per chi l'unica soluzione. Esatto, questo è un tema che ci portiamo da marzo. Esatto, no? Però io credo, e veramente lo sto osservando da vicino in questo contesto piccolo, ma sempre insomma molto simbolico e significativo, che è Lampedusa, che questo tipo di attenzione e di controllo dovrebbe riguardare tutti quanti, perché è tanto pericoloso, anzi, se guardiamo a quelli che sono stati fatti, è molto più pericoloso un turista X che arriva con un volo charter a cui viene solo misurata la temperatura, quanto lo è una persona che arriva che arriva sulle nostre coste. Noi ci siamo attrezzati per cercare di contenere il più possibile il rischio di diventare vettori, imbarchiamo i nostri equipaggi dopo l'osservazione dell'isolamento e dopo aver effettuato il tampone. La nave è stata sanificata prima di questa missione, è stata sanificata ora, le persone a bordo anche misuriamo la temperatura, isoliamo casi eventuali casi sintomatici, segnaliamo tutti i giorni con rapporti, si fa quello che si può, ovviamente. E quello che ci ha sorpreso però, per esempio, è stato vedere come nel caso della Sea Watch ci è successo di avere soccorso 211 persone, di cui 30 persone risultate positive al Covid all'arrivo. L'equipaggio è stato giustamente isolato, sì, così come le persone soccorse, e tuttavia non è stato possibile effettuare i tamponi sull'equipaggio. Ma questo è il problema di tutti gli italiani, cioè del tema dei tamponi, che non sono mai stati così pronti per tutti. Giorgia Rinaldi, ci dobbiamo fermare, la ringraziamo, portavoce di Sea Watch. Tra l'altro, caro Mario, prima di andare in pubblicità, io avevo una storia che mi ha colpito e tu un'altra storia che ti ha colpito. Io ho letto incredibilmente sul giornale, cioè dopo tutto il dibattito che c'è stato sulla statua di Montanelli, viene trovato un testimone dal sito tp.it che dice: ma guardate che mia mamma, Italo-Eritrea, era di quel villaggio citato da Montanelli, della famosa sposa bambina, d'Està, e mia mamma dice che non esisteva nessuna d'Està, per cui secondo me tutta questa storia della sposa bambina di Montanelli è un'invenzione, una balla colossale. Però non capisco la cosa. Montanelli, siccome la cosa l'ha raccontata Montanelli, sì, in libri e interviste. Sì, però cioè, Montanelli dobbiamo... si ricorda che si disse anche che intervistò Hitler, che fu una frottola. Va bene, ho capito. Cioè, qualcuno dice che ogni tanto... Montanelli si inventava una cosa che sarebbe ritorta contro. Non lo so, mi pare un po' ho registrato così questa cosa. Vabbè. Invece la storia che ha colpito te è un po' più vera, sicuramente. No, vera. Ieri è mancato un grande fotografo americano, si chiamava Paul Fusco, aveva 90 anni, che ha fatto un servizio straordinario, è ricordato per un grande servizio. Lui andò ai funerali di Robert Kennedy, che si tennero a New York. Poi però Robert Kennedy venne sepolto accanto al fratello ad Arlington, in Virginia, al cimitero militare, fuori Washington. E la bara venne trasportata in treno. Questo fotografo ebbe l'idea di salire sul treno, che aveva il feretro in un vagone, lui era in un vagone successivo, e anziché cercare di fotografare come facevano gli altri di straforo la famiglia, la bara, eccetera eccetera, lui fotografò gli americani che si vedeva dal finestrino, ed era un'infinita folla di persone completamente diverse, ed è un ritratto dell'America meraviglioso, dell'America della fine degli anni 60, che aveva visto però morire John Kennedy, quello stesso anno Martin Luther King morirà, e Bob Kennedy. E guardatelo, si chiama Paul Fusco, Funeral Train, guardate le foto su internet, sui social, eccetera eccetera, perché veramente sono foto bellissime. Mi dicevi che ne hai parlato anche in un tuo libro. Io l'avevo intervistato per un mio libro, Occhi Aperti, e ho fatto una lunga intervista con lui, e mi aveva colpito perché io l'ho intervistato, lui aveva 77 anni, 13 anni fa già, e lui era già ritirato, e alla fine dell'intervista, dopo due ore che parlavamo, io dissi: la ringrazio, vado. E lui mi disse: no, abbiamo già finito, è un sacco di tempo che non incontro nessuno, ha voglia di chiacchierare ancora un po'. Accidenti. Era tenerissimo. Una terza età un po' solitaria. Sì. Va bene, andiamo un attimo in pubblicità, ma tu rimani qui oggi. Ovviamente ci ha portato la focaccia, quindi finché non è finita, fino alle 10 rimane qui Mario Calabresi. Tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, 9:36 minuti, devo dire che anche Mario Calabresi è fedele alla regola numero uno in radio: non si mangia in onda, perché sennò poi c'è il rischio di tossire, ti va di traverso. Però ci ha portato questa focaccia ligure, e che io guardo qui dalle 9. Prometto che alla prima pausa, un po' lunga, alle 10, una smozzicata gliela do, Mario, ovviamente. Allora, adesso io alle 9:37 minuti, caro Mario, dobbiamo dare il buongiorno. Torna con noi al procuratore della Repubblica al Tribunale dei Minorenni di Firenze, Antonio San Germano. Buongiorno, dottor San Germano, e grazie di essere buongiorno, qui. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Un saluto al direttore Calabrese. Buongiorno. Ecco, ma guardi, non, facciamo non più direttore, perché sennò poi un giorno, se volessi candidarmi a qualcosa, non posso candidarmi, perché adesso vogliono fare questa legge. Ha scoperto, procuratore, non si può più candidare. Sarà sempre un grande direttore. Grazie. Lui si voleva buttare in politica e stamattina non so dove, ha sbattuto però la faccia contro questa legge nuova in discussione. No, allora il tema che vogliamo trattare è molto serio e io la ringrazio, dottor San Germano, ne abbiamo già parlato l'altra volta. Voi ricordate quando fu scoperta questa chat denominata The Shoah Party, una chat degli orrori in cui c'erano adolescenti che si scambiavano immagini pedopornografiche, eccetera. Allora voi nell'ambito della stessa inchiesta avete scavato di più e avete scoperto delle cose che io sinceramente, ne parlavo adesso anche con Mario Calabresi, leggendo sui giornali, diciamo no, ma no, non sono vere queste cose, cioè non, uno non ci vuole credere. Ce le vuole raccontare lei, San Germano? Sì, purtroppo sono vere, non soltanto in quel procedimento, ma in svariati procedimenti delegati a diverse forze di polizia. Ora io non parlo nel dettaglio dei fascicoli, naturalmente. Comunque il fenomeno che emerge è l'associazione sempre più frequente tra immagini pedopornografiche che si fondano su violenze sessuali realizzate anche su bambini in tenerissima età, tra i 2, 4, 5 anni, fino a salire, insomma, ma sempre minorenni, e le immagini gore, che sono queste immagini raccapriccianti che concernono esecuzioni capitali, smembramenti con amputazioni cruente di persone, atti diciamo di perversione inflitti ad animali, immagini anche di autoinfezioni masochistiche. E questa alchimia di fatto si fonda sull'esaltazione della violenza, e infatti molto spesso, oltre a immagini pedopornografiche, immagini gore filmati, c'è anche una esaltazione di varie ideologie violente che, al di là della connotazione ideologica, hanno come punto di riferimento l'utilizzo della violenza. Ma e ci faccia capire, ci sono persone che sul web, o quello che viene definito il deep web, pagano per vedere, per assistere in diretta a queste cose? Allora, ci sono innanzitutto filmati realizzati dai diretti protagonisti o testimoni, tra virgolette, di questi eventi cruenti, teatri di guerra, zone dove ovviamente la legalità diciamo non è la linea generale seguita dalle persone. Innanzitutto circolano questi video nel deep web. Quindi questi qui non è che sono, scusi, non sono video in diretta, prego. Sono video, come se ne abbiamo visto prima, parlavi della Libia, sì, a un certo punto sì, uscirono video di torture libiche, certo. Esatto. E che vengono messi a disposizione di chi paga una cifra per poterli vedere? Sì, sì, vengono acquisiti da chi è in grado, è tecnologicamente attrezzato per accedere al deep web. In più c'è l'ipotesi investigativa che ci siano contesti dove è possibile assistere a dei live, ovvero a delle azioni anche di natura violenta e che possono concernere anche i minori, dove c'è una possibilità di interagire per chi assiste in remoto con un collegamento, diciamo, virtuale nel deep web. Cioè, questa è la parte, quella parte più incredibile, cioè persone che in qualche modo guardano una sorta di film, neanche dell'orrore, non descrivibile, in cui un live criminale. Sì. Quindi e chiedono alla persona, dire fai questo alla persona che è lì. Questa è l'ipotesi investigativa fondata su specifici riscontri, non campata, diciamo, non sviluppata attraverso dei ragionamenti, sviluppata su dei riscontri specifici. Adesso vediamo di riscontrarla ulteriormente lavorandoci. Dobbiamo precisare che attualmente le procure minorili si occupano di minori, quindi il nostro è un approccio che più che altro tende a preservare il minore da questa calata negli inferi, che non può che pregiudicarne in qualche modo poi l'equilibrio, perché quelle immagini, per come poi ci risulta, entrano nell'anima e nella psiche, ecco, di chi le vede. Infatti il problema è, guarda, anticipato un po' la domanda, io già nel leggere solo resoconto sui giornali stavo male. Io mi immagino il procuratore, gli avvocati, cioè coloro che devono, che l'ho dovuto vedere. Che devono vederle. come dire, sì, sono cose con cui convivere poi a fatica, immagino, perché... Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Questo ci induce forse anche a una riflessione che non vuole essere minimamente moralistica, ma proprio una riflessione che compete poi alla politica nella sua autonomia di sviluppare su questo accesso indiscriminato ai giovani, per i giovani, ai siti pornografici, cioè sì, che un ragazzino di 12 anni possa accedere a uno dei grandi network della pornografia. Ovviamente questo può poi inoculare in questo bambino una visione della sessualità del tutto distonica rispetto a sentimenti, relazionalità e rispetto. E questa è una riflessione che probabilmente dovrà essere fatta. Sì, terribile, terribile. Noi, Io non credo che oggi ci sia la società, da questo punto di vista, sia peggiore di quella di un tempo. Credo che ci siano però delle tecnologie che permettono di condividere cose con una facilità che prima non esisteva. Questa è la differenza, per cui su questo bisogna fare attenzione. No, non credo che siamo più cattivi, procuratore, cioè è semplicemente... No, io non ho detto questo assolutamente, però io non credo mai alla cattiveria del bambino, del minore, nessuno è cattivo nella sua essenza. Ma va protetto dall'esposizione a questo tipo di cose. Esatto, attraverso forse una maggiore responsabilizzazione dei genitori, che insomma l'iPhone oramai è un appendice essenziale della persona. Se tu vuoi conoscere il profilo psicologico di tuo figlio, anche nelle pieghe più recondite, guardaci il cellulare. Perché il cellulare è un po' una fotografia dell'anima. Per chi ha dei figli adolescenti, guardagli il cellulare è una parola. Sì. La realtà io cerco di farlo sempre. È più facile andare in guerra. No, io cerco di farlo sempre, ma è una battaglia, perché sono veramente di un'esperienza per cui uno può mettere un parental control e nel giro di 2 giorni lo bucano come se fossero degli hacker. Non è facile, me ne rendo conto. Comunque, procuratore, noi la ringraziamo, Antonio San Germano. Grazie, buon lavoro. Procuratore della Repubblica al Tribunale per i Minorenni di Firenze. Hai visto, caro Mario, che leggevo sui giornali che nell'era del lockdown e della maturità fatta con, diciamo, in house, cioè con gli insegnanti non esterni, non le commissioni esterne, c'è stato un boom di promossi. No, di promossi no, ci sono stati anche dei bocciati, però i 100, i voti massimi, sono fioccati come le nespole, come avrebbe detto Aldo Biscardi Dantan. È stato un po', secondo te, un anno almeno questo di scuola? Ale, dai, avanti. Un po' sì, però è stato un anno davvero faticoso. Sì. Cioè, faticoso perché è stato un anno di rottura e io penso che i ragazzi portino dentro una ferita. All'inizio era una festa stare a casa, sì. E invece poi è stata una ferita non aver più visto i compagni, non avere più fatto la scuola, questo isolamento, sono saltati gli orari, i tempi, sì. E non è stata un'esperienza sport, facile. Faticare sì. Anche a uscire, adesso tirarli fuori di casa, sì. Su questi adolescenti, è davvero difficile. Va bene, dai, andiamo alle informazioni sul traffico. 1, nessuno, 100 Milan. You ain't nothing but a hound dog. Scusate, ma siamo sicuri che l'uomo sia evoluto? Perché mi sembra che stia regredendo e che continui a essere un uomo primitivo. Non è una novità che Montanelli tante cose le abbia inventate di sana pianta, ma scritte così bene che sembravano vere. Ad esempio, tutte le interviste, i famosi incontri di un libro meraviglioso, tantissime erano balle, oppure come il ritratto di un presunto Agnelli che viaggiava in treno e schifava il cestino da viaggio e bla bla bla. Vabbè. Basta, sto dibattito su Montanelli è un po' stancata così. Oh, l'hai lanciato tu, sì, mica... no, ma oggi volevo chiuderlo perché c'è il colpo di scena, secondo alcuni è tutta un'invenzione. Hai sentito che c'è la coda in Liguria? Ma tu in Liguria, posso chiedere se hai preso l'ombrellone? Quanto costa? Tutto a posto? No, non ho preso l'ombrellone. Niente. No, vado sugli scogli. Sugli scogli, ah. Sugli scogli, il dottor Calabresi quindi recentemente è stato al mare. Sì, esattamente. Il Giulier Crosta, buongiorno, dell'Agenzia delle Entrate. Lui dice che è stato sugli scogli, non mi sento di credere a questa dichiarazione del dottor Calabresi. Probabilmente si è rilassato sopra un bel lettino, anzi due lettini. No. È inutile scogli. Che lei indieghi su due bei lettini. Lei sa, caro Calabresi, cartella esattoriale numero 1267, che queste per noi sono informazioni preziose, perché dal suo tenore di vita noi possiamo dedurre il suo reddito, caro Calabresi, reddito elevato, e quindi in base a quello imporle le giuste tasse. Mi sono anche permesso, sì? Ragioniere, di portare un pacchetto di focaccia, quindi sono quindi proprietario di un forno, probabilmente. Sicuramente lei è proprietario di un forno, ha molti dipendenti che producono focacce, che però lei non paga regolarmente, lei non ha assunto, lei li paga in nero, caro Calabresi, lei è il principe, il re del nero, per questo può permettersi di andare sugli scogli con l'ombrellone, due lettini, ma in Costa Smeralda, Forte dei Marmi, alle Seychelles, Marina di Camerota, ma sicuramente lei, Calabresi, non si è accontentato di prendere il sole, è vero o non è vero, caro dottor Calabresi? Lei ha ordinato un cocktail, suppongo, in calici di cristallo, con all'interno ombrellini di seta, calici di cristallo contenenti ghiaccio, ma non ghiaccio di semplice acqua di rubinetto, ghiaccio ottenuto da acqua surgiva dell'Himalaya, su un cocktail adagiati su vassoi di oro zecchino consegnati nello stabilimento da camerieri incompleti di cashmere attorniati da esotiche ballerine. Tutto questo è colpa mia. È colpa sua, dottor Calabresi, sì. Così impara a produrre focacce. Così imparo a dire che lei, ragioniere, è molto divertente a Milan. Cartelle esattoriali, sono in arrivo cartelle esattoriali come se piovesse, caro Calabresi. E poi dopo apriremo l'ombrello. Ah, deve aprire più che altro il portafogli, caro Calabresi, più che l'ombrello. Noi entreremo direttamente nel suo portafogli, ben guarnito di contanti. Le consegnerò tutto quello che mi ha dato Milan quest'anno. È inutile che faccia ironia, è inutile che lei cerchi di sdrammatizzare con ironia, caro Calabresi. Comincia a preoccuparsi per il suo ben fornito conto corrente, perché immagino che dopo gli scogli lei sia andato a cena, è giusto? Posso desumere? No, sono a dieta. Ah, anche bugie su bugie, bene, questo va ad aggiungersi ai problemi che lei già ha. È andato a cena in qualche locale a gustare ostriche, champagne, lumache, caviale, bottarga, la bottarga, tonno pinne gialle, tonno pinne rosse, tonno pinne oro servite direttamente da Carlo Cracco, e poi dopo a gozzovigliare di notte, vero Calabresi? Vizi e stravizi per terminare la serata in qualche suite dell'hotel più costoso della California, attorniato da animali esotici, pinguini, coccodrilli, cinture di coccodrillo, cernie, cerniere di platino, pesci rossi in bocce piene non d'acqua, ma di Moët Chandon. Ebbene, caro, mi arrendo. Bravo. Ammetto tutto. Bravo. No, questo ammetto è tutto. Questo è l'atteggiamento giusto, caro Calabresi. Esatto. Ammettere... Di fronte al fisco, a un certo punto uno deve alzare le braccia. Esatto. Bene, quindi lei, caro Calabresi, se era al mare anche sugli scogli, il suo reddito presunto di 9 milioni euro. Di euro. Tutto dagli scogli. E su quelli, tasse come se piovesse, caro Calabresi. Ragione crosta. E lei, caro Milan? No, io lei, niente. Caro Milan, fermo sono. Che si nasconde, dietro a Calabresi, no. Contento dei suoi guai fiscali. È grande e grosso. Io contento. Dice, tanto tocca a Calabresi. No, caro Milan. Lei forse a casa possiede un tovagliolino di carta, sì, Milan? Sì, certo. Bravo. Anche più di uno. Di quelli estivi che si mettono sotto i cocktail, un tovagliolino con le palme, con le onde, con i fenicotteri, con le angurie, con i ghiaccioli alla marena. Lei, Milan, ha comprato montagne di tovagliolini per riempire decine di cassetti con i tovagliolini e poi ha invitato a casa gli amici nel suo attico, alla faccia degli assembramenti, perché secondo lei gli assembramenti sono consentiti se devi smaltire centinaia di tovagliolini. E Milan, un bel aperitivo sul suo terrazzo di Viale Monza con i canguri che saltellano, no, che tra il buffet migliaia di piante tropicali portate in Italia in modo illegale. Allora, lei chiama un bartender di fama internazionale, il DJ più famoso del mondo, ballerini al fisico scultoreo e ricostruiti il Pasha di Ibiza sul vostro balcone, dress code, costume da bagno e tovagliolini, titolo del party mojito e infradito. E mentre voi fate pagare 25 euro di ingresso, consumazione esclusa, noi, caro Milan, vi calcoliamo un reddito presunto di 12 milioni di euro. 12 Facciamo 12 milioni, anche per calabresi. 12 per calabresi. Così ce la facciamo alla pari, ragioniere. Sui quali voi, uno e due bravi giornalisti, che dovreste dare il buon esempio, e invece date il pessimo esempio, su quelli voi dovrete pagare le tasse. Tasse. Le tasse. Oh, le tasse. Tasse. Ragioniere, la ringraziamo. Ma noi siamo già quasi in chiusura della prima ora. Io voglio ringraziare anche Mario Calabresi, che ci ha fatto compagnia. È l'ultima puntata in cui verrà qui a farci compagnia, ma dal 31 agosto noi ritorniamo quando vuoi, le porte sono aperte. La tua newsletter va in ferie? Non va in ferie? La newsletter va in ferie soltanto due settimane a metà agosto, due per settimane. Il resto ci sarà sempre. Oggi ho visto che ti sei concentrato l'estate. Sullo sport. Sulle Olimpiadi, io racconto due storie olimpiche, perché le Olimpiadi rinviate sono un tempo perduto per molti, per molti sportivi, ma per qualcuno anche un tempo guadagnato. E ho trovato che il team dei rifugiati, ho parlato col suo allenatore, si chiama Nicolò Campriani, campione di tiro olimpico italiano, invece loro avevano bisogno di tempo, e avere un anno in più è stata una manna dal cielo. Una manna dal cielo. Manna, adesso il ragioniere dirà manna, la stavo aspettando, gliel'ho detto apposta. Il ragioniere Crosta ha sentito manna. Va bene. E allora parte. Ti lascio con Vestaglione. Noi ringraziamo Mario Calabresi per averci fatto compagnia ogni tanto in questa stagione, ci sarà anche l'anno prossimo. Lui sì, Leonardo Manera, chi lo sa, magari lo rottameremo. Hai firmato il contratto? Non ancora. So che non mi vuoi più, quindi non cerco dei posti dove non sono gradito, diciamo così. giustissimo. Dai, andiamo al giornale radio e ci sentiamo nella seconda ora di Uno Nessuno 100.000 tra pochissimo. MarioCalabresi.it. Ecco, che dicono grazie Calabresi, torna Calabresi. Insomma, è qua il microfono. Grazie. È questo. Quando vuoi. Buona estate a tutti. Per la focaccia ligure che ci ha portato, adesso me la magno. Ciao. Vi hanno detto che non si sarebbe ripartiti, che sareste rimasti senza calcio e sport chissà per quanti mesi, che era tutto finito, chiuso, cancellato. E invece no. Radio 24 vive insieme a voi questa calda e lunga estate di sport. Tutte le domeniche, in diretta, tutti convocati weekend. Il programma che vi racconta cosa sta succedendo, ascolta la vostra opinione e vi farà vivere in prima persona la volata per Scudetto, Champions League, Mondiale di Formula 1 e tutti i grandi eventi che riprendono. Un'estate senza limiti. Giovanni Capuano, Carlo Genta e Pierluigi Pardo vi aspettano tutte le domeniche, rigorosamente in diretta, dalle 17 alle 19, su Radio 24. Uno, nessuno, 100 Milan. You know I love that violence that you got away the car with blow down news of the marriage of the socialist money to another one's land and I put one where it used to stand, yeah. Però non teneteci sulle spine, ma Manera il prossimo anno ci sarà o non ci sarà? Well, is it easy? Ecco, infranto la regola numero uno della radio. Non stai mangiando, mangia, stai non mangiando. Non si mangia in onda, quindi conduci pure tu, caro Leonardo. Ma l'anno prossimo. Questa focaccia genovese. Non lo so, io non ho mai avuto contratti prima. Ecco, mi vengono fatti a posteriori i contratti normalmente. Certo, però se tu ti metti anche contro il Vaticano, come hai fatto ieri. Alzami un po' il volume del microfono, per sono favore. Poi della cuffia. Della cuffia. È questo? Sì, te bravo. Così va bene. Posso perforarti il timpano se te lo alzo? Cos'è che hai da sopra il microfono? Una specie di profilattico bianco. È un regalo di Guido Scotti. Mi ha detto tieni questo, qua solo per te. Io ho detto grazie Guido. Vabbè. Ti ringrazio infinitamente. No, dicevo Guido. Se molto tu però gentile, ti... Guido se... Scotti, ti amo. Ah, Guido. Voglio devi Guido. Dirci qualcosa? Guido, dammi un altro di queste affarini bianchi che non so come definire, che si mettono sopra la spugnetta, queste protesi bianche che vanno sopra la spugnetta. Copri spugnetta magari. Un copri spugnetta, il copri spugnetta di Guido. Guido. Dicevo, se tutti inimichi il Vaticano, Guido, sono poteri forti quelli. È un nome strano, Guido, da dire. Immaginati una coppia, no? Dove lui si chiama Guido e mentre nel momento culminante lei dice Guido. È un nome strano da dire Guido nel Vabbè, momento. Se vuoi lo chiamiamo adesso e gli chiediamo ancora Guido. Guido, è tanto tempo che cercavo un uomo come te, Guido, un uomo che mi facesse veramente sentire importante. E mi sono reso conto, Guido, che tu sei diverso da tutti gli altri uomini che ho conosciuto fino ad oggi, Guido. Guido, tu sei dolce, sensibile, attento alle mie esigenze. Salutiamo tutti Guido all'ascolto. Ancora, Guido, mi fa impazzire, Guido. A questo proposito, però, è arrivata una busta. Sì. Ecco qua, Manera Leonardo, via Monterosa 91, urgentissima, è arrivata una busta per te. Vorrei allora, che tu la aprissi vediamo. In diretta, se andate su Facebook. Cosa ti è arrivato? Non è un pacco bomba? È un libro. Luciano Moia, il titolo è Chiesa e omosessualità. Ah! Sai che ieri avevamo telefonato al Vaticano per chiedere sì. quale fosse la posizione ufficiale della Chiesa rispetto all'omosessualità e oggi è arrivata questa parte, questo libro, capisci? Ma me l'avete mandato voi o è arrivato veramente? Vabbè, adesso insomma me l'avete mandato voi. mi avete voluto fare questo scherzone. Ehi ragazzi, mi avete fatto uno scherzo molto divertente. Ci sono tutte le premesse. Non me l'aspettavo veramente, uno scherzo veramente ok. Fatemene così tutti i giorni per rallegrarmi la giornata. Oggi mi sento veramente meglio grazie a questo scherzone. Bruno da Milano, buongiorno Bruno. Ciao, buongiorno a tutti. Eccoci. Guarda, nonostante il po' di buon umore che Leonardo ci sta dando in questi ultimi secondi, ti devo dire che sono ancora sconvolto e non riesco a coordinare bene il pensiero dopo aver sentito quel reporting che è stato fatto sulle violenze ormai così diffuse. E il mio commento a chi mi chiedeva qual era poi in effetti la sintesi del pensiero va poi all'aula del tribunale, perché alla fine tutto sommato dopo lo sforzo che gli investigatori, la magistratura e tutti coloro che tentano di preservare qualcosa di umano in questa società, alla fine finirà che verrà riconosciuta l'infermità mentale di queste, ma non oso neanche definirle bestie, perché vedi, non è detto, verrà riconosciuta l'infermità mentale e si accaveranno con poco, perché finisce così. Quindi purtroppo adesso mi dici, ma la tua soluzione qual è? Ma guarda, da cristiano cattolico praticante, cioè, non posso bestemmiare, non posso andare contro chi in effetti credo sia soprattutto e soprattutto e per i quali il perdono comunque va sempre considerato. Però veramente ragazzi, se non pigliamo veramente seri provvedimenti, ma veramente finisce male. Questa storia effettivamente è talmente scioccante, perché un conto è leggerla, pensare, uno dice gli snuff movies, no, come si parla, ci sono film a riguardo, però un conto sono i film, un conto, ma pensare che nella realtà ci siano persone che pagano per vedere in diretta delle torture, delle atrocità commesse su bambini, delle sevizie, è un qualcosa sì che non ha tolto veramente anche a me quasi la parola, ed è incredibile. Bruno, lei dice ed è convinto che non pagheranno come dovrebbero pagare queste persone, non lo so, speriamo invece di sì. Io vorrei tornare, caro Leonardo, su cosa un po' più leggere. Ci è arrivata una mail che è meravigliosa, ce la scrive Giulia. Cari Milan e Leonardo, già nota il modo a me del cognome a te. Grazie, insomma. Giulia, già ti ringrazio fin d'ora. Ti ringrazio fin d'ora, Giulia. Siete una delle belle cose portate dal Covid. Oddio, c'eravamo anche prima, però vabbè, delle belle cose. Però per prima non ci poteva ascoltare, esatto, perché lavoravo. Ebbene magari. Sì, vi ho conosciuto in quarantena perché dovendo stare a casa in un orario di cui di solito ero libera di lavorare. Libera perché avevo le mie belle, amate, desiderate bimbe al nido e alla scuola materna. Che gioia! La mattina, nelle infinite operazioni di riordino, ho iniziato ad ascoltare la radio e ho scoperto uno, nessuno, 100.000. È stato amore a primo ascolto. Anita, la bimba grande, alla fine del periodo di quarantena, ormai aveva imparato che nessuno in quell'ora e mezza mi poteva disturbare. Allora ogni tanto mi chiedeva: dura ancora tanto la tua radio? O è già arrivato Leonardo? E lui è sempre in ritardo. I bimbi di Milan hanno parlato. Tutto questo per dirvi grazie con tante. Ogni tanto, mentre cucino la sera, ascolto la puntata della mattina. Ormai siete entrati in famiglia. Come avrei fatto senza di voi? Beh, Giulia, mega grazie. Sarebbe interessante sapere se quando tornerà al lavoro normale, ammesso che non sia già tornata, poi avrà modo di continuare ad ascoltarci o meno. Io ecco, Giulia, licenziati per continuare ad ascoltarsi. Se è vero amore, Giulia, si può rinunciare al lavoro per amore, come quelli che no, si poi stupendo, è una grande lettera di affrancamento dalle esigenze dei figli. Cioè Anita chiedeva, dice: Anita, aspetta, c'è la radio, prima sto ascoltando la radio, sto ascoltando Vestaglione a Manera. Non si disturba Anita quando c'è Vestaglione a Manera. Beh, è un ottimo insegnamento anche per i figli. Giusto, che ci sono delle priorità. Oh, ci sono delle priorità nella vita. Bisogna mettere dei limiti ai figli. Insomma, magari Anita voleva un succo alla pera. Dopo. Adesso c'è il monologo di Manera. Anita, per esempio, la figlia aveva dei problemi intestinali. Dopo. Vai a cambiarti. Il bagno è di là, Anita. Adesso devo ascoltare un attimo il personaggio di Sprecacenere Donato. Va bene, c'è Gustavo da Savona. Buongiorno, Gustavo. Buongiorno a voi. Eccoci. Ho sentito che volevate qualche riflesso da quello che succede sulle strade Liguria. Liguri. Certo. Dov'è Gustavo? Allora, in questo momento ho avuto la fortuna, perché chiaramente è passato un po' di tempo, sono uscito dalla zona nevralgica, però la mia esperienza è iniziata ieri sera, perché ho avuto la malaugurata idea di andare da Varazze a Pegli e non ho trovato traffico. Sull'Aurelia ho preso l'Aurelia tranquillamente. Quanto distano Varazze e Pegli? Saranno 15 chilometri più o meno. Okay. E il ritorno è stato un delirio, perché hanno chiuso l'autostrada per il ritorno ed è stata una coda praticamente ferma, immobile, per tutto il viaggio di rientro. Il problema è che quando fanno i lavori in autostrada non dicono che ci sono i lavori anche sull'Aurelia, sì. Quindi non è un serpente che si morde la coda, non c'è uscita. Quando metti il navigatore si rifiuta, come i cavalli davanti all'ostacolo, ti dice il navigatore: no dai, non andiamo lì per favore, perché è una roba che la gente pensa che quando l'informazione parla di qualcosa la ingrandisce. In questo caso è il contrario. In questo caso è addirittura sì. Non si riesce a spiegare quanto terribile sia la situazione, no? Gustavo, ma infatti è incredibile, cioè in questo momento io trovo che quando il sindaco di Masone è venuto ai nostri microfoni a dire che dovrebbero togliere i pedaggi, è il minimo, cioè vie di fuga dalle autostrade dove vengono sequestrate le persone e niente pedaggi da pagare, è il minimo. Il problema è che qui c'era anche coda sulla statale. Sì, beh, d'altronde, se uno, tutti diranno no in autostrada, no, andiamo sulla statale. Ricordi i vecchi tempi della Salerno-Reggio Calabria, quando sì, ancora non era terminata, che era un continuo entra e esci dall'autostrada e stai sempre in coda. A questo proposito, a Mormanno, a Saltit da Mormanno, hai preso a Saltit da Mormanno? Traffico. Spesso i buoni affari hanno bisogno di decisioni rapide e di informazioni utili in tempo reale. Scarica l'app di Credit Reform e puoi leggere subito e ovunque tutte le informazioni sulle aziende europee che ti interessa conoscere meglio. Credit Reform App, semplice, rapida, conveniente, da smartphone e tablet. Credit Reform, primo in Europa per le informazioni commerciali. 800 42 53 25 o creditreform.it. Uno, nessuno, 100 Milan. We go. lemon in December, heading for the city lights. Io più che chiedermi se ci sarà o no a settembre Leonardo, vorrei solo che venisse almeno un giorno a dirci cosa è andato male durante le ferie, perché sicuramente gli andrà male tutto. Vai Leo, sei il numero uno dell'amarezza. Dai, su tutto. No dai, non ti andrà male tutto. Ma perché ti dovrebbe andare male tutto? Qualcosa, qualcosina andrà male. La verità è che a tutti qualcosa va male, non so, anche magari qualcun altro bucherà una gomma, però gli altri la mettono in un angolino della testa e dice: ah sì, ho bucato la gomma, lascia stare, 10 giorni fa è stato un po' un mezzo disastro, però insomma. E invece tutte queste vicissitudini costruisci. Per esempio, facciamo una cosa di pararadio. Tu ci hai sempre raccontato pagine di amarezza. Raccontaci una pagina di amarezza che potrebbe accaderti in agosto. Cioè, ce la racconti prima stavolta. Sei amareggiato. Non parlo più oggi, basta. No, dai. Basta. Mamma mia. Anzi, prevedo per me un'estate, un agosto pieno di soddisfazioni. Adesso, dai. Anzi, devo dire che pure il venerdì 17 fa notare Fusconi, ma è venerdì 13 la vera combo. Normalmente per me l'estate di solito, tranne rari casi, ma insomma è sempre una stagione buona dove succedono sempre cose abbastanza belle nel complesso. Quindi sarà così per me anche quest'estate. A volte ci hai raccontato qualche vicissitudine. Sì, una volta è capitato, come capita a tutti, ma per me l'estate è la stagione più serena della vita. Ecco. Quindi prevedo per me un agosto pieno di serenità, di mari azzurri, di rapporti sereni e di orizzonti che si aprono. Oh, che bello. Tra l'altro, ci scrive un ascoltatore: figuratevi se Manera fa fatica di leggere il libro che gli è arrivato, dategli i bignami. Effettivamente puoi adottare la tecnica Lucchetti che tu applichi ai libri. Quindi questo libro, che vogliamo ricordare, si intitola Chiesa e omosessualità. Ha una bella prima di copertina. Poi sai che ho fatto un libro tra l'altro per le edizioni San Paolo. Correva l'anno 2011 e le edizioni San Paolo mi chiesero di fare un libro perché mi vedevano vicino a questa spiritualità e religiosità. Quindi è una casa editrice che conosco. Certo, e il titolo del tuo libro? Italian Beauty, viaggio in un paese di mostri. Italian Beauty. Ma questo lo leggerai? No, come no, tutti io, i libri. No, li metto lì e leggo la quarta di copertina. Ecco, appunto. Non dobbiamo relativizzare la legge, ma renderla relativa alla persona concreta, con le sue specificità. La pienezza della volontà di Dio per una persona non è la stessa per altra. Ecco, io sono a posto. È a posto, bel libro. Ma già si capisce il contenuto, no? Sì. Che bisogna relativizzare per ogni persona, non è la stessa cosa. Quindi bisogna anche essere aperti, anche per la Chiesa, alla omosessualità e a tutte le caratteristiche della vita. Come se l'avessi letta. A proposito di libri, ma è vero che proprio oggi Riccardo Pirrone, che è già stato con noi, ah no, ieri forse mi dicono, oggi o ieri ha presentato il libro? Pirrone? Glielo chiediamo. Pirrone? Ciao. Quando è? Ieri? Ieri è uscito il libro, oggi lo presentiamo. Allora, perché Elisabetta Fusconi dall'altra parte mi faceva gesti del tipo: no, ieri è uscito, ma la presentazione è stasera. Adesso sì, perché stasera è venerdì 17. Giusto, venerdì 17, Riccardo Pirrone, che è autore della campagna social della Taffo Funeral, sapete tutte quelle pubblicità in cui si ironizza sulla morte. E infatti il titolo è Taffo, ironia della morte, riderne è l'unico modo per uscirne vivi. Per Baldini e Castoldi. Stupendo, cioè, cosa dobbiamo aggiungere? Cosa c'è in questo libro, Pirrone? Perché ammetto che non l'ho ancora. In questo libro c'è un po' tutto, perché ci ho messo tutto quello che abbiamo fatto in 4 anni e mezzo. Sì. Quindi si parla di black humor, quindi ridere della morte per godersi di più la vita. Perché con il black humor riesce a disinnescare quella paura che c'è sotto questo argomento. C'è una carrellata di post che abbiamo fatto, spiegati, descritti, ma in realtà è anche un libro per chi lavora nel marketing o si vuole avvicinare al mondo dei social media. È vero. Perché c'è anche tutto una parte nel sottoterra, perché è diviso tra superficie e sottoterra, dove infatti parte dal capitolo 10 e finisce poi allo zero e poi continua meno uno, meno due, meno tre, dove c'è il sottoterra, dove ci sono tutte le strategie, quindi un po' più formativo. Il sottoterra. No, ma devo dire che infatti al di là di tutto, cioè è un caso, un case history, come si dice, a livello di marketing e di pubblicità, perché come si può fare la pubblicità per i funerali? Questo è il tema. Si può farla in maniera classica o si può farla come fa la Taffo Funerale? Ecco. Beh, è anche vero che sui social fare qualcosa di istituzionale non ha molta forza. Quindi dire, come fanno tutte le altre, magari gli altri settori, no? Siamo i più bravi a seppellire le persone, non era, diciamo, sì, il messaggio più carino. Quindi cercare di fare delle frasi che parlano anche di attualità o di temi sociali, si riesce a essere più comunicativi e quindi a creare una community. Sì. Ce ne ricordi qualcuna, Riccardo, delle più storiche? Le più famose, ad esempio, quando ci sono state le ultime elezioni, abbiamo fatto italiani che aspettiamo le urne, con tutte urne sotto, oppure quella per i vaccini, in pratica c'era anni fa il movimento Novax, sì, che sì, si è ricreduto, penso ora che è scoppiata la pandemia, anni fa dicevano appunto di non vaccinarsi, no? E noi abbiamo detto, fingendo di appoggiarli, non vaccinati, siamo pronti anche ad un'epidemia, con tutta una serie di, con l'archivio delle nostre bare, con tutto, certo, il deposito delle, certo, nostre bare. E avanti così, sì, perché sono tutte pubblicità poi legate alla realtà, alle notizie. Ma chiedo anche a Leonardo Manera, ma black humor funziona nella comicità oppure viene sempre visto in un popolo scaramantico? Ma io credo che sia fondamentale, perché la comicità nasce proprio, come ho già detto altre volte, per esorcizzare i problemi della vita, quindi anche la paura della morte. Ma si può ironizzare proprio anche sulla morte? Secondo me, magari se l'evento è proprio immediato, no, se è passato magari un po' di tempo, sì. Tra l'altro, dice il mio amico psicologo Luca Mazzucchelli, come tanti altri psicologi, che per vivere bene bisogna sempre avere consapevolezza della morte. Ah, consapevolezza. Sì, tra l'altro, forse la differenza fondamentale che facciamo noi è che noi scherziamo sul concetto di morte, quindi sulla morte e non sui morti. Sì, c'è, certo, una bella differenza. Certo, assolutamente sì, non si fa ironia sulle persone che sono venute a mancare, ma sull'atto, su quel momento finale. Tutti noi ragioniamo come se la morte non ci dovesse riguardare, come se non arrivasse mai, invece avere l'idea che la morte fa parte della nostra vita ci aiuta, credo, e lo dicono appunto tanti psicologi, a vivere meglio. E qui c'è il salto in più, cioè c'è la consapevolezza e ci si ride sopra, sì, sì. È abbastanza, cioè questo. Anzi, no, ancora di più, perché noi facciamo anche, diciamo, sensibilizzazione su temi sociali, cioè sfruttiamo questo tema che fa molto breccia per sensibilizzare contro la droga, contro l'omofobia, tutti temi che sono molto vicini, sembrerebbe di no, ma sembrerebbe di sì, al tema funebre, perché esempio molti ci hanno criticato che abbiamo appoggiato spesso il Gay Pride, abbiamo proprio partecipato al Gay Pride, ma per Taffo, che comunque la morte è una livella, non solo per Taffo, anche per Totò, diciamo, è una livella, perché dovremmo essere uguali solo quando moriamo e non anche in vita? Per quello abbiamo appoggiato delle cause che diciamo dicevano a tutti che siamo tutti uguali e quindi era in linea con i nostri valori, con i valori di Taffo. Sì, allora, giustamente venerdì 17, non una data casuale a questo punto, anche se ripeto, appunto, in America è venerdì 13, la vera combo, sì, la vera combo disgraziata, però noi che invece vediamo il 17 come il numero sfortunato. Allora, Taffo Ironia della Morte, ma dov'è che lo si presenta? Edito da Baldini e Castoldi. Non l'ho detto? Si presenta a Roma, non ci crederai, in un locale che si chiama Marmo. E se sta poi davanti al verano, cioè diventa un allineamento dei pianeti. Cioè alla fine aperitivo con distanziamento sociale al verano, no, non lo so. No. Vabbè. Quando? Stasera? Questa che ora? Sera alle 7:30. Alle 7:30, 19:30. Mi sembra giusto. C'è una canzone. Il libro comunque c'è già in tutte le librerie. Sì, certo, certo, visto che è uscito ieri, lo trovate. C'è una canzone di Claudio Lolli, cantautore degli anni anni 70, 80, che si chiama Aspettando Godot, e parla di una persona che per tutta la vita non fa niente perché aspetta sempre che succeda qualcosa che gli possa cambiare la vita, e si conclude questa canzone dicendo: ho iniziato a vivere forte proprio andando incontro alla morte. Quindi la consapevolezza della vita. Allora, anche noi una canzone, Ma stupendo. Ma invece, Pirrone, ma se poi con la dedica che si fa, la firma normale sul libro, un'urna, una bara, no? Regaliamo degli adesivi con i nostri aforismi. Ah, va bene, con gli aforismi non male. Grazie Riccardo Pirrone, veramente in bocca al lupo per questo libro uscito ieri, Taffo, Ironia della Morte, stasera alle 19:30 ma da marmo. Però c'è un modo, c'è un modo per evitare la morte, l'elisir del dottor Meazza. Non muori più, non muori sempre mai. 19:90 19:90 o non muori mai oppure puoi risorgere. Mamma mia, ragazzi, questo è uno spot. Non si sa quando, ma puoi risorgere. Puoi risorgere, va bene. Guardalo lì, con la sua faccia da smargiasso. Andiamo alla borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... 1. Nessuno. 100 Milan. Allora, alle 10:36 minuti, caro Leonardo Manera, il presidente della Regione Campania, De Luca, pare ne abbia detta una delle sue, ancora. Era una presentazione che l'ho intervistato da Bruno Vespa. Senti un po' cosa ha detto De Luca. Se lei ricorderà, Milano non si ferma, Bergamo non si ferma. C'è stato perfino un segretario di partito, un mio amico, che è andato a fare un brindisi, però poi siccome... Caro, io costato. Siccome Dio c'è, a pigliare il Covid, subito dopo. De Luca si riferisce al suo, tra l'altro il suo amico Zingaretti, sì, segretario del PD, è andato a fare un brindisi, siccome Dio c'è, si è beccato il Covid. Ma io dico, cioè, De Luca quello del mandiami lanciafiamme, è così, è De Luca. Prendere o lasciare, insomma, non è simpatico fare la battuta se è beccato il Covid, siccome Dio c'è, come dire, è stato punito. E va bene, va bene. Signori, 10:37 minuti. Adesso io non lo so se sia... Sì, che mi piacerebbe ogni tanto nella vita avere tutte le certezze che ha De Luca, per esempio. Infatti, nelle dichiarazioni sembra eccezionale. Sì, sì. Sempre sicuro di tutto. Sì, è un po' la strategia, è la sua strategia comunicativa. Sai com'è nella vita, poi? Sei così sicuro? Sì. Sposta subito quel telecomando da lì, perché a casa c'è la vita io. Privata con i parenti, ma sarebbe interessante saperlo. Va bene. Allora, è un lavoro, una passione, un hobby? Daniele Cermelli, buongiorno. Buongiorno. Cercatore d'oro. No, vabbè, se la dipingo così non è proprio la sua, il suo lavoro numero uno, no, Daniele Cermelli? Cosa fa in realtà per vivere? Niente, io sono un agricoltore biologico del Piemonte, della provincia di Alessandria, e ho la fortuna di avere l'azienda agricola che ricade in zona SIC, che è scritto importata comunitaria, zona Natura 2000, ed in parte all'interno della riserva naturale del Torrente Orba. Del Torrente, dove si è scoperto, ho letto ieri un articolo di giornale, evidentemente c'è l'oro, ecco, non avrei altre parole per dirlo. Sì, è proprio per la notorietà delle sabbie aurifere di questo torrente che la Regione Piemonte alcuni anni fa ha individuato un'area per la ricerca dell'oro a scopo materiale scientifico e didattico. E io, nell'ottica della multifunzionalità agricola, ho pensato di intraprendere questa piccola attività agrituristica e fattoria didattica che, come piano formativo, ha appunto la tematica della ricerca dell'oro nel torrente Orba. Il piano formativo che propongo ultimamente sembra che abbia, insomma, un discreto riscontro. È innanzitutto la visita guidata al Museo dell'Oro che ha allestito in Cassina, per raccontare l'origine di questa pratica nel nostro territorio, che risale già addirittura al periodo preromano. Ma come mai c'è l'oro lì? Perché il gruppo di Voltri, che sono le montagne che geograficamente fanno parte dell'Appennino, ma geologicamente fanno già parte della catena delle Alpi, Il gruppo di volte sarebbe l'Appennino che parte dal Genovesato e va fino verso la Costa Bona, e le colline dell'Alto Monferrato hanno dei filoni di quarzo bianco, detto anche quarzo aurifero, che è dovuto durante le eruzioni vulcaniche e ere preistoriche, che solidificando i vapori del magma portavano in sospensione questi metalli pesanti, che principalmente sono magnetite, molto comune il melite, il zircone e anche percentuali di oro. Ovviamente non immaginate pepite, cari ascoltatori, no? Ma immagino dei polvere, pagliuzze. No, sono tutte pagliuzze. Il diametro massimo nella mia zona che si può trovare è dai 4 ai 5 mm di diametro. Beh, 4-5 mm non è mezzo centimetro. Sono già comunque, diciamo, ritrovamenti eccezionali. Eccezionali. Normalmente è un pulviscolo che comunque in quantità pesa tanto come la pagliuzza più grande. Sì. E il mio piano formativo, come mi permettevo di dire, dopo la visita guidata al Museo del Centocore d'Oro, che racconta un po' tutta la storia di questa pratica, che è cominciata in grande stile con l'arrivo degli antichi romani, che avevano edificato due centri in cui portare gli schiavi cristiani proprio a cercare l'oro. Poi le ricerche sono continuate nel Medioevo da parte delle popolazioni locali, delle signorie locali. La popolazione rurale ha sempre alternato l'attività agricola con la ricerca d'oro in maniera molto importante fino al secolo scorso. Sì. Ma veri e propri esperimenti, vere e proprie imprese a livello industriale sono state fatte nella seconda metà dell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Beh, ma diciamo che ha colpito, cioè vedere che adesso nel torrente Orba ci siano i cercatori d'oro, che è un qualcosa che in realtà affonda nella storia, non è una novità. Insomma, magari qualcuno, Leonardo, gli viene in mente un... Quanto oro si può trovare in un anno e come peso? Ma guardi, chimicamente in un metro cubo di litoide dell'Orba è presente chimicamente un grammo d'oro. Sembra una cifra molto importante, ma è solo una minimissima parte quella che si può effettivamente recuperare, e soprattutto lo si deve fare sempre con attrezzatura manuale non meccanica, perché c'è una legge del primo dopoguerra che vieta l'utilizzo di strumenti meccanici. Quindi a mano. Setaccia in pratica, il si setaccia. Rifugio. Io come piano formativo, dopo, come dicevo, dopo la visita al museo per capire l'origine di questa cosa, faccio dei corsi in cascina ai neofiti, agli inesperti, con sabbie già precedentemente concentrate da me, cioè la sabbia naturale di fiume è passata due volte alla famosa scaletta del cercatore d'oro, in modo che anche il neofita, l'inesperto o il bambino possa recuperare almeno mezzo grammo. Glielo faccio quasi sempre trovare, perché questa sabbia è veramente tanto ricca, e soprattutto l'inesperto capisce il comportamento della pagliuzza all'interno del piatto. Dopo aver avuto la necessaria sufficiente manualità, allora poi, se ulteriormente interessati, gli posso dotare di tutta l'attrezzatura necessaria, che va dagli stivali alla scaletta che dicevo prima, il piatto del cercatore, il secchiello, li accompagno nel fiume all'interno della riserva naturale, dove insegno proprio in natura le tecniche per la ricerca dell'oro, perché l'oro è un po' come i funghi, non è che distintamente in ogni posto, ci sono alcune zone dove è più indicato. Ma stupenda insomma questa cosa. Daniele Cermelli, grazie, insomma, agricoltore ma anche cercatore d'oro, cioè l'oro bene, rifugio, lo sanno bene i nostri amici svizzeri, ovviamente. Che succede? No, ma perché? Allora, già lo sappiamo bene, lo sappiamo bene. No, sentivo che parlavate di oro. Sì. Il fatto è che a noi arrivano direttamente sotto forma di lingotti, cioè l'oro ci arriva sotto forma di lingotti, non facciamo lo sforzo. Elisabetta Fusconi, come stai? Eccoci, niente, ci tenevo a darvi un saluto di persona vis-à-vis, visto che poi me ne andrò in vacanza, anche se... Devo dire la verità, da vostra badante rigorosa, affezionata, ossequiosa, quale sono? Ecco, vado in vacanza un po' poco serena, sono preoccupata per lo stato Leonardo, psicofisico, soprattutto di Leonardo. Raccontiamo che ieri abbiamo fatto la cena, finalmente ci siamo visti, abbiamo fatto cena tutti insieme. È da lì che è nata la mia preoccupazione. Io vorrei... Ma sono in grande forma, sono anche dimagrito, sto bene. Sì, è vero, Leo, però io ti pregherei di impegnarti davanti a tutti a fare per quest'estate un voto di castità. Ti chiedo di farlo. di prepararti a un'estate di sola contemplazione, come insegnano i benedettini, perché ne abbiamo bisogno un po' tutti, che tu arrivi a settembre con questo voto. Ma lui lo è, lui lo è. Mm? Ma insomma, questa Svizzera invece, cos'è? Tutto mi vedrai a posto? In vacanza, la Svizzera, e tutto a posto, sì, e purtroppo anche lì stanno ritornando dei casi positivi al Covid, però diciamo che tutto molto tranquillo, come al solito. Vuoi salutare il tuo amico Anacleto? Anacleto, ciao, ma a presto. Non c'è. sarà sulla solita panchina, lo salutiamo virtualmente. A cercare il suo direttore di banca. Direttore. Chiesina uzzanese, ma niente, non succederà nulla. Vabbè, ma scusa, c'è stato questo lockdown, ma perché non te ne stai in Svizzera? Perché non fai uno smart working fino al 2033? Guarda, ci ho pensato, sono stata anche bene a farlo là. Però no, vorrei veramente tornare qua. Niente. Ho bisogno delle contraddizioni italiane. Ne ho bisogno veramente, una linfa per me. Eccola là, la classica Svizzera, Svizzera in Italia. Però. Viva la Svizzera stando in Italia. Capisci? Sono piedi in più scarpe. D'altro canto anche Leo ha diversi piedi in più scarpe, come ci raccontava ieri sera a cena. Ma non aprirei questa finestra. No. Ciao Elisabetta, vai a lavorare, traffico. Promo 24. L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che comporta la progressiva atrofia dei muscoli volontari e il loro indebolimento. Si manifesta per lo più in età infantile, è la prima causa genetica di mortalità infantile, ma può colpire anche in età più adulta. Si trasmette per via ereditaria quando i genitori, portatori di malattia o di geni mutati, trasmettono entrambi la mutazione. Il riconoscimento dei sintomi, dai tremori e difficoltà nella deglutizione alle evidenti difficoltà motorie, gioca un ruolo fondamentale per l'efficacia della presa in carico. Prima è, meglio è. Rivolgiti al medico o allo specialista o visita il sito care.togetherinsma.it. Questo è un drago più che un dinosauro, veramente la natura ha superato la fantasia umana. Questi ipermemori hanno un'ipermemoria autobiografica e ricordano tutto quello che hanno vissuto durante la loro vita. Si dovrebbe riassumere un attimo che cosa diavolo è l'economia circolare, perché non ce n'è un'idea molto chiara. Prendiamo dalla natura delle componenti vive per dare più funzionalità ai robot. Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza, la trasmissione che vi racconta storie di ricerca, di tecnologia e di innovazione. Ne sentirete delle belle. Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui. Vi aspettiamo dunque da lunedì al venerdì alle 20.50, ovviamente qui, su Radio 24. In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile. Uno, nessuno, 100 Milan. Cari ascoltatori, un ascoltatore Antonio, che tra l'altro è di Chiesina, chiede: ma Anacleto ha il contratto firmato? L'ho mandata in ferie? Questa potrebbe essere una buona soluzione, nel senso che un contratto anche per il buon Anacleto, e quindi ferie pagate. Però avviso Anacleto, nel caso di ferie pagate, che deve entrare come tutti il 30 agosto, e soprattutto che le ferie vanno scalate, quindi se ha delle ferie arretrate deve scalarle e pagarle. Tra l'altro il buon Anacleto, magari potremmo anche farci un saluto. Comunque, cari ascoltatori, sono le 10:50 minuti. Leo, vogliamo concludere questa settimana, venerdì 17, questa puntata di Uno Nessuno 100.000. Prima abbiamo ospitato il ragionier Crosta, visto che Mario Calabresi era molto contento di sapere quanto doveva pagare, quindi abbiamo un po' invertito la nostra scaletta e vogliamo concludere con qualche pensiero. Siamo quasi arrivati alla conclusione per quest'anno di Uno Nessuno 100.000. Ne abbiamo vissuto tutti insieme qualcosa che si può definire il cigno nero. Il cigno nero è appunto un cigno nero, abbastanza raro in natura, ma la definizione si può attribuire in generale a un evento imprevisto e imprevedibile che cambia la nostra vita. Il coronavirus, in questo senso, è un cigno nero, un evento raro, inaspettato e imprevedibile che ha cambiato il corso della nostra vita per qualche mese, sicuramente, forse anche di più. Ce ne sono stati altri di cigni neri nella nostra storia recente, ad esempio l'attentato alle Torri Gemelle, che poi ha dato il via ad anni di lotta al terrorismo. Ma ieri pensavo che anche nella vita di ognuno di noi può esserci, anzi, quasi sempre c'è un cigno nero, un momento in cui, al di là di ogni previsione, accade qualcosa che poi cambia il corso degli eventi, cambia il corso della nostra esistenza. Anni fa, ad esempio, nell'estate del 1987, l'ho già raccontato una volta, ero in Sardegna. Quella mattina avrei dovuto andare in gita a Stintino con alcuni amici, ma la sveglia era troppo presto e ho preferito evitare. Quello stesso giorno, poi, mentre gli altri erano a Stintino, ho giocato a tennis in doppio e il mio compagno, cercando di raggiungere una palla, mi ha dato una gomitata per colpa della quale ho rotto la milza, procurandomi un'emorragia interna, rischiando la vita e poi non facendo il militare. E avendo poi da lì una serie di cambiamenti nella mia vita, ecco il cigno nero. Se fossi andato a Stintino non sarebbe successo. Il cigno nero può capitare anche nel lavoro. Anni fa avrei potuto condurre un'importante trasmissione, ma l'attore che avrebbe dovuto affiancarmi ebbe un ritardo imprevisto con le riprese di un film e poi non se ne fece più nulla e altri subentrarono al posto mio. Ancora una volta il cigno nero era comparso nella mia vita. È vero, qualcuno potrebbe chiamarla sfiga, ma io più poeticamente preferisco definirlo cigno nero. Ecco, il mio augurio per tutti voi, per tutti noi, è che si sappia sempre reagire al cigno nero che a volte inevitabilmente nella vita si manifesta. Quando arriva il cigno nero, la prima tentazione è di mollare tutto, di lasciarsi andare, di abbandonarsi all'amarezza e alla delusione, ma poi, da qualche parte, si trova necessariamente la forza per ripartire, per adattarsi e per imparare anche qualcosa dai cigni neri che fanno capolino qua e là nella nostra esistenza. Quest'anno per tutti noi il cigno nero è stato il coronavirus, ma abbiamo saputo reagire con forza, perfino impastando pizze e cantando sui balconi, a volte anche con un po' di retorica, ma andava bene così. Siamo uomini e donne, spaventati guerrieri di fronte agli imprevisti, ma poi la vita ci accompagna ancora e ci offre altri orizzonti, anche inaspettati. Grazie a tutti voi che anche quest'anno siete stati con noi, grazie per la compagnia che ci avete, che mi avete fatto in quest'anno di cigno nero. Anche se, caro Leonardo, no, adesso sembra che noi lunedì prendiamo, andiamo, invece no, lunedì siamo qui in una settimana particolare, ti piace questo aggettivo, particolare, no, lunedì saremo qui dalle 9 alle 11, cioè saremo qui, adesso non so come metterla, però insomma saremo in onda dalle 9 alle 11 fino a venerdì prossimo e poi in una forma estiva invece con il meglio di dalle 9.30 alle 10 a partire da quel lunedì l'altro, che non chiedetemi che data è, ma insomma potete fare i calcoli. Allora, arrivano i ringraziamenti anche dagli ascoltatori. Cari ascoltatori, ci ritroviamo lunedì appunto alle 9. Tu sei qua in studio o lo fai da casa? Lunedì? Da casa, farò da casa. Da casa. Va bene, chi lo sa, chi lo sa. Io verrò qua. Invece verrò qua. Va bene, cari ascoltatori, potete scrivere una mail a 100milan@radio24.it. Anche per questo venerdì è tutto, ci ritroviamo lunedì prossimo. Buon weekend.